Quando ero guaglione, vent'anni fa, a giritta mamma mi voglio sposare. Mamma mi ha detto, figlio mio, mo senta a me che t'ha già dio lo 16 ton. What do you get? Another day older and deeper in debt. Se non porta paga, che la la, vogliere de non dera a mangiare. 8 pare scarpe, 8 pare casette, una veste si leva e una veste si mette, i femmini si fatte per mangiare, e l'uomo si fatte pezza paio, load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. E se non porta paga, che la la, vogliere de non dera a mangiare. La mattina e la sera sembra zappare, più stanco di siente e più vecchio di va, e se non porta paga, che la la, vogliere di non te da mangiare, load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt, e se non porta paga, che la la, vogliere di non te da mangiare, load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. E se non porta paga, che la la, vogliere di non te va a mangiare.